ritrovati e ben ritrovati. Ho detto un EI tutto insieme, era un asterisco, diciamo. Sì, ben ritrovati barra e alla nuova puntata della Fuga del Gatto. Puntata caldissima e che inizia un po' in ritardo. Sì, ebbene sì, come spesso succede con me. Domenica 30 luglio, diciamo che siamo proprio agli sgoccioli con questo luglio caldissimo, afoso e assolutamente poco bagnato, direi. Sì, abbiamo sofferto un po' tutti. E come appunto le ultime volte ormai dovreste saperlo, la Fuga del Gatto in versione estiva vi propone delle versioni integrali di alcuni concerti precedute da un po' di chiacchiere, ma non troppe. Oggi sono in solitaria, non ho la Virgi con me che mi aiuta, che saluto ed è impegnatissima. E siccome appunto sono da sola, ovviamente mi butto sulla musica antica, barocca e le cose che piacciono a me, ormai lo sapete, purtroppo vi tocca così. Niente barocco, niente 500-700, oggi si va ancora più indietro perché si va nel Medioevo. Vi parlerò oggi del libro Vermeer de Montserrat, che è un manoscritto, per farla molto breve, un manoscritto conservato presso il monastero di Montserrat, appunto un monastero molto affascinante dalla storia lunga, complessa e ricca di cose interessanti, che è vicino a Barcellona, questo monastero su delle montagne, appunto le montagne di Montserrat, che sono veramente bellissime, impressionanti, basta che sbirciate su Google e le vedete. Si dice che anticamente queste montagne stavano sotto il livello del mare e che proprio dal mare furono slavate e erose, portandole poi alla forma che hanno adesso. Lo vedrete se andate a vedervi delle foto, hanno una forma piuttosto particolare, ecco. Il libro Vermeer de Montserrat, Vermeer rosso, quindi il libro rosso di Montserrat, è rosso perché la copertina con cui venne rilegato nel XIX secolo era di questo colore. Questo libro contiene una collezione di canti medievali e non solo, in realtà questo manoscritto ha vari altri testi non necessariamente musicali, e questa collezione, questo testo e questo manoscritto pare risalga alla fine del Medioevo. Il monastero, tornando alle origini, il monastero di Santa Maria de Montserrat è un monastero benedettino che è situato a un'altitudine di 720 metri, proprio su questa montagna di cui vi parlavo prima, la montagna di Montserrat, nella Catalogna. L'origine di questo monastero è un po' incerta, è un po' dibattuta, non si riesce bene a capire, anche perché ne parleremo, ha avuto varie peripezie questo luogo. Probabilmente l'origine è intorno al 1000, ma in realtà il luogo era considerato sacro da ben prima. Secondo la leggenda, infatti, la prima immagine della Madonna venerata dentro questo monastero, anzi in realtà venerata in questo luogo, ancora non c'era il monastero, la prima immagine fu ritrovata da alcuni bambini che accudivano un gregge dentro una grotta nell'anno 880, o insomma intorno all'880, quindi ben prima del 1000. Videro una luce sulla montagna, andarono a vedere e videro questa apparizione, pare, della Madonna, e da lì si iniziò il culto della venerazione di questa Madonna. Quando il vescovo del momento seppe di questo ritrovamento, cercò di far trasportare questa piccola statua, che pare fosse apparsa durante questa apparizione, la volle far trasportare a Manresa, un'altra città, ma gli fu impossibile perché la statua improvvisamente divenne troppo pesante. Quindi il vescovo decise che questo era un segnale, che sta Madonna voleva di rimanere esattamente lì, e che quindi si doveva costruire un santuario e si doveva costruire un luogo di culto di questa Madonna. Il monastero di Montserrat ha avuto una storia di battaglia per l'indipendenza non differente, direi, da quella tra Catalogna e Castiglia. Un po' i due destini evidentemente erano legati. Non a caso è stato per anni il simbolo della lotta indipendentista catalana, o almeno uno dei simboli. Nell'Ottocento, fra l'altro, invece, amenamente arrivarono le truppe napoleoniche che lo incendiarono e saccheggiarono due volte. Gli edifici che vediamo ora, quindi, sono, ahimè, frutto di una ricostruzione ottocentesca. Io ce l'ho legata al dito con le ricostruzioni dell'Ottocento, che hanno fatto grandi scempi, ma d'altra parte in questo caso effettivamente probabilmente c'era rimasto ben poco dopo Napoleone. Attualmente la comunità monastica è formata da un'ottantina di monaci. E nel monastero, lo vedrete appunto se andate a incuriosirvi e andate a guardare sulle foto, è un monastero bello grosso, non soltanto i monaci abitano in questo luogo, ma anche diversi bambini dai 9 ai 14 anni che compongono la scuola di canto di Montserrat, che è ritenuta la più antica d'Europa perché risalente appunto al XIII secolo. C'è una grossa tradizione di didattica del canto e di musica, di studio e pratica della musica e del canto in questo monastero fin dal Medioevo appunto. Ma non solo, non solo la musica è importante in questo luogo, addirittura pare che il monastero sia al centro della leggenda del Sacro Graal. Ebbene sì, incredibile ma vero, e ci furono vari, tra cui addirittura Wagner nel Parsifal parla di questo Graal che appunto si trova nelle montagne nel nord della Spagna. Non solo lui lo dice, alcuni senza mai fare riferimenti precisi. Tant'è che insomma in realtà pare che questa cosa non sia assolutamente vera e che in realtà il Graal, se mai esistito, ma chissà, comunque non sta là, ma sta in altri posti. Himmler comunque nel 40, visto che appunto i nazisti ci avevano questa simpatica passione per questo oggetto, per farci i loro riti e cose da pazzi, fece comunque una visita al monastero per chiedere, si sa mai, ma non è che per caso avete visto sto Graal, ma non ottenne niente. Invece, sempre per saltare di palo in frasca, non sto andando in ordine storico, in realtà sto un po' saltabeccando, ma altri fatti interessanti è che nel dicembre del 1970, 300 tra artisti e studenti vari spagnoli tennero un presidio di protesta in questo monastero per protestare appunto contro le condanne a morte inflitte ancora no per fortuna, ma pronunciate contro 16 attivisti baschi dell'ETA. In risposta ci furono ovviamente scontri, la polizia non la prese bene, il regime franchista men che meno appunto, e quindi vennero arrestati tutti, 300 partecipanti, la polizia chiuse il monastero, fatto abbastanza inconsueto, probabilmente dopo le truppe di Napoleone non sarà mai visto. Le proteste portarono fuori dall'abbazia e comunque sia, insomma, alla fine della fiera i manifestanti riuscirono a convincere il governo franchista ad annullare le sentenze di condanna a morte, che divennero comunque sentenze di anni e anni di galera, ma comunque almeno non condanne a morte. Ma torniamo al manoscritto, lasciamo per un attimo il monastero. Il manoscritto di cui parliamo, che è un manoscritto piuttosto unico appunto, cioè piuttosto è unico ma è straordinariamente importante direi, fu copiato verso la fine del XIV secolo, sì, ma le composizioni in realtà pare siano probabilmente ancora precedenti, non si capisce bene di quando, sono tutte anonime. Ma probabilmente risalgono a tempi ancora precedenti. Inizialmente questo manoscritto conteneva 172 fogli scritti su due facciate, se ne sono perduti 35 e in realtà dei 137 restanti, in realtà soltanto 7 contengono musica, quindi insomma non c'è tantissimissima musica, ma quella che basta per renderlo un libro molto importante, almeno per la storia della musica. Il Livre Vermeil è l'unico testo che si salvò dalle fiamme, tra l'altro appiccate dalle truppe napoleoniche, come dicevamo prima, incendiarono tutto, distrussero tutto. Incredibilmente questo libro fu l'unico a salvarsi. Non vi voglio dire troppissimo altro perché non voglio rubare troppo tempo all'ascolto dell'esecuzione di tutti e 10 i brani contenuti in questo libro. I canti sono in lingua catalana, occitana e latina, e i pezzi arrivati fino a noi sono appunto 10, 3 canoni, 2 composizioni polifoniche e 5 danze. Io vi farò ascoltare la versione che è la prima pubblicata su disco, pubblicata da Jordi Savall, che è il direttore dell'ensemble Experion 20, che esegue queste musiche che sentirete, nel lontano 1979. Poi ce ne state varie riedizioni della stessa registrazione, e nel 2016 lo stesso Jordi Savall ha registrato ancora un'altra versione, appunto ovviamente molto più recente e anche molto suggestiva. Ma noi ci ascoltiamo la versione originale del 1979. Vi leggo i 10 brani che ci andiamo a ascoltare. Sono O Virgo Splendens, Stella Splendens, Laudemus Virginem, Los Set Goits, chissà come si legge, Splendens Captigera, Polorum Regina, Cuctissimus, Maria Matrem, Imperatriz della città Gioiosa, ma io il mio spagnolo, soprattutto quello antico, chissà, Ad Mortem Festinamus, O Virgo Splendes. E O Virgo Splendes, come avrete notato, ricorre la ripetizione del primo brano. Beh sì, abituatevi, perché nella musica antica i canoni e le ripetizioni la fanno da padrone. Quindi vi saluto, vi lascio appunto il Libre Vermeil di Montserrat, Experion 20, Jordi Savall, e vi do appuntamento a domenica prossima. Saremo già ad agosto e saremo il 6. E niente, buon ascolto, buona fine di questa domenica assolata, e basta, fate i bravi. Ciao ciao! Thank you. Oh, Yeah. Let it be, let it be, let it be.